Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. La giornata di assedio per Bruxelles comincia all'aeroporto di Zaventem della capitale belga. Poco dopo le 8, pochi minuti dopo le 8, la zona delle accettazioni dell'aeroporto è piena di gente e accanto ai banchi dell'American Airlines esplodono due bombe, una dopo l'altra. È un fuggi-fuggi generale, 14 persone rimangono uccise, ci sono decine di feriti. Viene sventrato un pezzo della zona dei check-in, saltano i pannelli che ricoprono il tetto, il soffitto di quella zona, che feriscono le persone anche a lunga distanza. Si scoprirà poi più tardi che un terzo ordigno non è esploso. Per tutta la giornata gli artificieri, la polizia e i corpi speciali dell'esercito hanno rovistano nell'aeroporto. Mi rendo conto che riprendere l'argomento di cui i media italiani stanno parlando con capillare attenzione da almeno un giorno abbondante è molto difficile, ma c'è sempre qualcosa da dire nelle pieghe dell'informazione che puntualmente vi verrà data. Tutte le volte ci sarà qualche aggiornamento dai colleghi del nostro giornale. No, il punto di riflessione voglio spostarlo io in questo momento su un altro piano. Su un piano più generale, come avete sentito poco fa, ho detto al giornale radio, stavo pensando su questa sorta di luogo rappresentativo della coesione dell'Occidente, dell'Europa in particolare, perché per noi il nostro ombelico è il centro del mondo e quindi per noi l'Occidente siamo noi europei. Questa mattina mi ha scritto un'amica: hai visto, vogliono crocifiggere delle suore il giorno del Venerdì Santo, dovevamo dare retta al Papa che ha detto ritroviamo le nostre radici cristiane. Ma non è che uno scava una buca, ritrova le radici e improvvisamente c'è un'identità basata su dei valori, è ben altro. Beh, questa città che in questo momento rappresenta quello che di più superficiale e più artefatto possa esistere come idea di coesione, che era l'Unione Europea, di cui ci accorgiamo soltanto adesso perché qualcuno attenta a quel luogo simbolico e diventa quasi la ferita più dolorosa attraverso cui sembra entrare e uscire tutto ciò che in questo momento apparentemente darebbe a noi preoccupazione, ma realmente ci preoccupa, realmente siamo in apprensione, realmente finché non avremo fino alla porta di casa qualcuno che farà saltare in aria delle persone, le vedremo a pezzi davanti a noi, sarà un problema che riguarderà veramente noi. Basta veramente mettere la bandierina tricolore del Belgio come filigrana del proprio profilo Facebook per essere partecipi e sentire parte di questo. Vi pongo un altro punto di riflessione: il concetto della meglio gioventù. Prima che accadesse l'attentato, tutta la nostra attenzione era coalizzata su quella parte di studentesse dell'Erasmus che erano perite in quel tragico incidente a Valencia di un autobus che alle 4 di notte per un autista che si addormenta, si schianta e muoiono le ragazze. Improvvisamente ritratti le nostre ragazze italiane, le uniche che probabilmente a noi interessavano veramente, erano in tutti i siti Facebook, nei giornali più confessionali c'era l'eterno riposo per loro, gli altri hanno continuato a parlare di questa nostra meglio gioventù. La nostra meglio gioventù, cioè la gioventù che rappresenta il futuro, sono le ragazze che con grande tristezza, grande dolore, ma questo non aggiunge nulla al dolore delle famiglie, sono andata a fare l'Erasmus, una cosa bellissima, divertente, ma che molte volte assomiglia molto più a una bella rimpatriata tra amici, una bella gozzoviglia fatta fra amici, che qualcosa che poi crei le condizioni per costruire qualcosa di nuovo per il proprio paese, per la propria identità, per la propria cultura. E chi è anche la meglio gioventù di quello che noi chiamiamo Europa, se non i fratelli Khalid Ebrahim al-Bakrawi, i due identificati come attentatori dell'attentato di Bruxelles? Anche loro comunque vivevano in Europa, anche loro vivevano a Bruxelles, la capitale della nostra unità europea, anche loro per qualcuno rappresentano la meglio gioventù, ma da qualunque punto lo guardiamo, sia dal punto nostro che pensiamo che l'Erasmus sia il luogo della meglio gioventù, il vettore della meglio gioventù, sia per l'ISIS, per cui la meglio gioventù sono quei due signori che spingono i carrelli, è tragico dirlo, ma la meglio gioventù è rappresentata da persone morte. A tra poco. Melog. Cronache meridiane. Ho 800 24 00 24, siamo in diretta, potete anche voi dare un vostro contributo di riflessione sui temi che stiamo in questo momento toccando. Sono sempre dei temi laterali, delle derive individuali rispetto al grosso tema del conflitto che in questo momento ci sta coinvolgendo a dispetto dei vari livelli di percezione che abbiamo della realtà di questo conflitto. Abbiamo in studio ospite Bruno Ballardini. Ballardini è da un paio d'anni che viene ai nostri microfoni, e dai nostri microfoni è nata una sua idea che si è concretizzata poi in un libro, ISIS, il marketing dell'apocalisse, libro di successo, uscito per Baldini e Castoldi. Però a Ballardini, che è esperto di marketing e comunicazione strategica, io un paio d'anni fa chiesi: Bruno, tutto quello che stiamo osservando, allora erano delle semplici clip trasmesse su YouTube di esecuzioni rituali, però con degli elementi di costruzione del film, della ripresa, che ci facciano pensare, assomiglia a una grande campagna di marketing strategico. Andando avanti poi, prima sei stato trattato da eretico, da persona poco equilibrata, oggi è il tema di tutti. Allora c'era chi diceva: non facciamo vedere i film dell'ISIS, i filmati dell'ISIS, perché così non siamo complici. Oggi ci sono analisi particolareggiate in ogni angolo, anche della prova del cuoco, di queste cose. Allora, a questo punto però c'è qualcosa che non mi torna. L'attentato di Bruxelles, in una strategia di marketing, visto che come questo voglio trattare con te l'argomento ISIS, che parte ha, che punto è? Ecco, intanto buongiorno a tutti. Ma, volendo continuare la metafora del marketing, direi che siamo alla parte finale, cioè l'obsolescenza e la decadenza del prodotto, in cui la marca cerca di riaffermare i propri valori presso il proprio pubblico d'elezione. Quindi per dimostrare che è ancora forte, è viva e solida, fa delle demo, delle dimostrazioni davanti al pubblico, che poi vengano usate delle modalità moderne come il flash mob o il guerriglia marketing, che è affine alla guerriglia in senso stretto. Questo è un dettaglio irrilevante. Quello che abbiamo visto è l'invio di, diciamo, figure che assomigliano ai venditori porta a porta, che però vanno lì per dimostrare al loro pubblico, non a tentare di convertire altri o convincere qualcuno. Il loro obiettivo è la distruzione dell'obiettivo e far vedere alla propria gente che siamo ancora vivi e siamo forti. Ecco, perché una città così anonima come Bruxelles, che per anni è stato un luogo che la gente la metteva nei propri itinerari di viaggio immaginario al 35esimo posto, improvvisamente è diventata una città simbolo? Ma è simbolo in senso negativo, certo, nel senso che caso. Diciamo che c'è una storia dietro che è stata tra l'altro ricordata da noi ci aspettavamo la cupola di San Pietro che crollasse, i cavalli dei cosacchi si abbeverassero, no, si colpisce Bruxelles. 3 anni fa nessuno l'avrebbe mai detto. Nelle scritture, intanto, nei testi dell'ISIS, la presa di Roma avviene molto più avanti, avverrebbe dopo che è stata conquistata, secondo loro, tutta l'Europa. Ora, a parte le belle parole, il babau mediatico, Bruxelles ha una storia che è stata ricordata proprio in questi giorni da Scaglione, l'ex direttore, vice direttore di Famiglia Cristiana, e cioè Re Baldovino, all'epoca, negli anni 60, nell'ambito delle sue trattative per approvvigionamenti, buoni rapporti con i produttori di petrolio e in particolare i sauditi, regalò a Re Faisal un padiglione intero che divenne un centro di diffusione del credo wahhabita in piena Bruxelles. Ora, tutto questo noi ce lo siamo ricordati, forse non lo ricorda più nessuno, ma non è una moschea, un centro culturale qualsiasi. È un centro che diffonde il credo dei sauditi, che è il wahhabismo, che è lo stesso dell'ISIS. Si sono formate generazioni di persone lì, fanatiche, che poi che siano invisibili. Tutto questo è dovuto a una tecnica di occultamento del proprio credo, che serve per difendersi, si chiama taqiyya. Ed è, in ambito sunnita, un modo per dire bugie, dire no, io sono un moderato. Invece magari erano degli estremisti fanatici. Per questo oggi noi identifichiamo l'Islam con il settore wahhabita. Proprio, tu attribuisci proprio a questa donazione il cattolicissimo Re Baldovino, che passò la storia per non aver voluto firmare una legge sull'aborto, si era dimesso, ha fatto delle cose che lo dimostravano come il vero difensore delle radici cristiane dell'Occidente. Noi stiamo... In realtà è quello che ha aperto la fessura. Sì, noi stiamo pagando uno per uno tutti gli errori dell'Europa e dell'Occidente, e paradossalmente anche perfino il fatto di cronaca di cui si parla oggi sembra una metafora, cioè la morte tragica dei ragazzi Erasmus, degli studenti, alla fine sono state vittime dello stesso meccanismo per cui si sono avvantaggiati i terroristi, e cioè il sonno dei conducenti. Cioè, da una parte c'è stato un guidatore che si è addormentato, dall'altra c'è la guida dell'Europa, il nostro governo, che è assolutamente inefficiente, inetto e incapace di gestire le crisi, ma anche i tempi normali, che mette in discussione proprio la guida, i conducenti di questa Europa. E questo, in questo momento siamo arrivati alla resa dei conti. Ecco, c'è un particolare, mi dicevi poco fa, proprio nella dinamica dell'attentato. Vorrei evitare in questo spazio di fare quello che ho sentito spesso in questi giorni, il bar dello sport trasposto nelle intelligence, nelle strategie, nelle grandi interpretazioni e letture su quello che è la contrapposizione Oriente-Occidente. Però Ballardini, visto che studia e osserva tramite i canali di comunicazione di queste persone che in questo momento non sappiamo bene se considerare nemici, ma visto che abitano nelle nostre città, in fondo anche loro fanno parte di noi, che noi ne diciamo. Ecco, qual è stato l'elemento più preoccupante per te? Per me l'elemento è che questo di Bruxelles e quello di Parigi, per quanto mi riguarda, sono delle prove generali. Io ho annunciato per primo la progettazione di un grande attentato, che loro hanno annunciato ormai da gennaio del 2015. È stata raccolta la notizia, l'indiscrezione, da un freelance, Mike Giglio. Nessuno ha dato ascolto a questa cosa, ma poi il pericolo di attacchi a Sciame e di un grande attacco a Sciame, che è ancora da vedere se si riuscirà a fare, se riusciranno a farlo. Quello che ci farà rimpiangere le Torri Gemelle. Ecco, loro, secondo i loro commenti... Rimpiange, cioè ci farà considerare minimale le Torri Gemelle. Esattamente, la promessa era: vi faremo dimenticare le Torri Gemelle. Ora, io questo, da analista, lo collego al furto di gas sarin avvenuto, dichiarato, diciamo, alla fine di gennaio 2016, per cui l'ISIS avrebbe catturato delle grosse quantità di gas sarin nel sud della Libia. Lo metto in collegamento, lo collego con l'idea di un grande attentato, e a questo punto passo la palla ai nostri servizi, che spero siano sufficientemente allarmati sul pezzo. Alfredo Mantici, buongiorno. Buongiorno. Direttore della rivista di geopolitica Lookout News e ex capo dipartimento analisi del SISD. Su questa ultima lettura di Bruno Ballardini, su questo furto di gas sarin in Libia, è un dato ufficializzato o rimane, diciamo, una notizia data da un freelance? No, per il momento, da quello che mi risulta, non c'è niente di ufficiale, anzi, non c'è nessuna prova che nel sud della Libia ci fossero dei depositi di sarin. Però, se mi permette, l'analisi generale di Ballardini è molto originale e molto interessante. La ringrazio. E colpisce nel segno, secondo me, in alcuni punti. C'è un dato che però non può essere trascurato. Questa serie di attentati in Europa, in Francia e in Belgio, li dobbiamo considerare ancora terrorismo domestico. Certo. Non è ancora terrorismo internazionale. Si rifanno al brand ISIS, come prima si rifacevano ad Al-Qaeda per Madrid. Ma sia a Londra che a Madrid hanno operato dei terroristi locali, a Londra col passaporto inglese, a Madrid degli immigrati marocchini perfettamente integrati. Quello che voglio dire è che quando si sente dire chiudiamo le frontiere, voltiamo la testa dall'altra parte, perché il problema ce l'abbiamo in casa e lo dobbiamo controllare con le metodiche che abbiamo usato con successo sia sul piano operativo che sul piano normativo contro le Brigate Rosse, contro Prima Linea, contro Terza Posizione. Noi abbiamo avuto un'esperienza di questo genere, e forse è proprio questa esperienza che attraverso la quale sono passate anche le nostre attuali forze dell'ordine, che ci tiene ancora al riparo, perché c'è un po' più di efficacia nella prevenzione di quanto non abbiano dimostrato di essere capaci i belgi. Stamattina Gilles Kepel sulla Repubblica ha definito il Belgio uno stato fallito, e da questo punto di vista quello che è successo negli ultimi mesi dimostra che è uno stato fallito. Mantici, mi perdoni, la saluto intanto, la ringrazio dell'apprezzamento. Volevo annotare soltanto che, e sono perfettamente d'accordo con lei, mi riferisco a Mike Giglio, che aveva aveva stampato una indiscrezione per cui raccolta sul territorio, per cui i contrabbandieri avrebbero fatto passare già 4.000 fighter dalla Siria, e probabilmente erano tutti cittadini europei di ritorno col passaporto. Quindi è giustissimo che sono europei, sono locali, però poi sono collegati comunque all'ISIS. Sono andati a farsi un corso di aggiornamento rispetto ai tecnici. Quindi stanno già qui. Un attimo, Bruno, dobbiamo dare la linea un attimo all'informazione della borsa. Riprendiamo fra un istante solo. Sì. 800 24 00 24, mi arrivano molti sms. Vedo che la cosa che più ha colpito tutti è questa storia delle radici cristiane, che, intorno alle quali probabilmente ci si dovrebbe arroccare per fare una sorta di baluardo. Però un altro ascoltatore mi fa notare come mai non è stata colpita una chiesa cattolica, un luogo legato al culto. Evidentemente è ancora l'attacco è in un versante che non tocca la contrapposizione che si pensa così, così netta fra cristianesimo e islamismo. Ci fermiamo un istante, tra poco. JP Morgan Asset Management vi presenta Melog, cronache meridiane. Vedo che questo punto di vista di approccio al grande dibattito che in questo momento sta facendo e su cui sta riflettendo l'Occidente appassiona il nostro pubblico. In particolare abbiamo delle domande molto specifiche. Sentiamo Walter da Vicenza, buongiorno. Buongiorno a tutti. Premetto che ho cominciato a sentire il programma un po' tardino, quindi ho sentito solamente una parte del discorso, ma in particolare parlavo della tachia. Lei cosa fa nella vita, da Walter? Sono un vigile, un agente di polizia locale. Ah. Come è così esperto? Prego? La sua esperienza, diciamo... Beh, tanto faccio la domanda, poi vediamo. Poi le faccio la domanda io. Allora, succede che la tachia o tachie in farsi non vuol dire esattamente, come ho sentito prima, bugia. In realtà la tachie è un atteggiamento che avevano i musulmani sciiti nei confronti dei musulmani sunniti, e praticamente permetteva loro di sopravvivere all'interno di un mondo prevalentemente sunnita. La dissimulazione, come in realtà viene tradotta, cioè, serviva per sopravvivere, perché altrimenti venivano. Ma lei come mai così ha questa competenza, Walter, facendo il vigile? Io ho cominciato pur da tardi, ho cominciato a studiare l'arabo e il persiano all'Università di Venezia. Sentiamo Ballardini come risponde. No, è correttissimo, solo il problema è che adesso moltissimi usano lo stesso termine anche per i sunniti, cioè per il sunnismo. È diventato, diciamo, un neologismo per indicare il camuffamento in generale che si usa all'interno dell'Islam quando si vuole proteggere da condizioni avverse, per esempio una persecuzione. Ci si trova all'interno di un gruppo ostile, si fa finta di rigettare, diciamo, il proprio credo. Cioè il martirio, come lo intendiamo noi, la testimonianza dei martiri, va fatto soltanto quelli che vanno a farsi saltare, gli altri stanno buoni, tranquilli, fanno finta di niente e sì, magari fiancheggiano. Diciamo, c'è stata un'intervista che voglio dire, io me la sono tenuta come esempio quando faccio qualche conferenza, di musulmani che stavano al mercato di Parigi dopo gli attentati, tra l'altro parlavano pure in italiano, e quando sono stati intervistati hanno negato di essere d'accordo con gli attentatori. Noi non siamo così, l'Islam non è così, quelli sono degli assassini, quella è politica, noi non c'entriamo niente, eccetera eccetera. E hanno detto, i morti sono morti. Allora il giornalista ha incalzato ancora e gli ha chiesto, sì va bene, ma tu pregheresti per loro, visto che sono tutti uguali i morti? E quello ha risposto, e perché devo pregare? Il che significa che prima stava mentendo. Allora, questo è un esempio classico di camuffamento. Quando si è trovato alle strette di fronte ai suoi connazionali, sapendo che era in televisione, non poteva a quel punto raccontare una bugia. Si è protetto. Alfredo Mantici, ricordo direttore della rivista geopolitica Lookout News e ex capo del Dipartimento Analisi del SISDE. Vedo che l'interesse del pubblico, perlomeno dalle telefonate e dai messaggi, si ferma soltanto, soprattutto, sull'analisi di quello che potrebbe essere riassunto come guerra di religione. Non trova lei, questa almeno l'ipotesi che ci stiamo facendo noi, che in realtà l'aspetto religioso sia un aspetto marginale, almeno secondo come la vediamo noi? In fondo non è così importante la nostra appartenenza o la nostra professione di fede o al nostro avere comunque degli ideali legati a una quotidiana pratica religiosa, quanto in realtà ormai il problema sia più di tipo geopolitico, è una guerra a tutti gli effetti. Ma la guerra di religione cessa di essere tale quando la religione diventa politica. La grande guerra che c'è in questo momento tra sciiti e sunniti è sì una guerra di religione, ma è una guerra politica per il controllo di aree che per gli accordi vecchi di Sykes-Picot erano state date in gestione a minoranze che non corrispondevano alla reale demografia della regione. Oggi quelle cambiali incautamente firmate dall'Occidente fin dal Trattato di Versailles stanno venendo a scadenza. I sunniti iracheni sono stati messi sotto dagli sciiti iracheni e hanno fondato l'ISIS per difendersi e portare la lotta contro gli alawiti, che sono sciiti siriani, che essendo minoranza come lo erano loro in Iraq devono essere abbattuti. Quindi io toglierei il termine religione dalle guerre che stiamo combattendo, perché sono guerre politiche. L'unico problema di una religione che si trasforma in credo politico è che non ammette mediazioni, perché dall'altra parte non c'è qualcuno con cui discutere, c'è un eretico, c'è un apostata, c'è una persona che va eliminata. Mai riusciremo a veder governare insieme sciiti e sunniti, ma perché nel loro DNA politico c'è il rifiuto totale del dissenso dal loro credo religioso. Quindi io non sono d'accordo sul termine guerra di religione, semplicemente perché è un confronto politico tra un Occidente che ha commesso degli errori quasi irreparabili nei confronti del Medio Oriente, del Nord Africa e del mondo arabo in generale, e che adesso stiamo cominciando a pagare. Abbiamo commesso errori come quello di Re Baldovino. È d'accordo anche lei, Mantici, su questa lettura che è uscita questi giorni? Il cristianissimo Re Baldovino ha fatto la più grossa cazzata che poteva fare in realtà un governante europeo in quel tempo. Ma vede, quando noi ci sforziamo di analizzare un comportamento storico, tra virgolette, noi tendiamo ad escludere la categoria imbecillità nelle nostre categorie di valutazione. Esatto. Perché ci sforziamo di razionalizzare ogni comportamento e ogni scelta. Ma chi lo sa che Baldovino, buonanima, non fosse semplicemente una persona poco intelligente? Qualche dubbio ci è venuto. Perfettamente d'accordo. Sentiamo Davud, da Lucca, buongiorno. Buongiorno. Stavo ascoltando proprio il vostro discorso, ma il discorso è questo: comunque la religione musulmana è sempre basata sulla bugia. Non c'è assolutamente, in senso di partenza proprio era in questa maniera. Io sarei più drastico, direi in realtà tutte le religioni sono basate su una grande bugia. Comunque, detto soprattutto, soprattutto la religione musulmana. Adesso comunque vi dico una cosa, non esiste... Lei chiama da Lucca, ma mi dice le sue origini, sento che non parla esattamente il dialetto lucchese. Comunque anch'io sono comunque straniero, sono persiano. Sì, è un persiano. Ma noi non siamo arabi, noi siamo persiani, siamo diventati musulmani 1400 anni fa, con esattamente quello che succede oggi. Ci hanno distrutto la cultura 1400 anni fa, hanno ammazzato tutti i persiani 1400 anni fa, ma io quando sento voi giornalisti, voi politici, parlate dei musulmani democratici o musulmani sunniti, sciiti, tutto è una fascia, non cambia nulla, non c'è assolutamente differenza. parte dal nostro capo, in senso, per modo di dire, da Maometto. Cosa può essere cambiato? Per tutto è uguale, in senso, alla fine abbiamo un obiettivo. Obiettivo, sto parlando dei musulmani, non persiani. Comunque fra noi persiani ci sono tanti musulmani che sono proprio esattamente degli arabi. È diverso fra persiano con arabo. Comunque tutto questo che succede parte da lontano 1979, da Parigi, con la rivoluzione iraniana. Comunque quello che volevo dire, perché anche sa, non dovete aspettare che uno davanti alla TV vi racconti tutto quello che pensa, da parte che solamente vi dico una cosa, musulmani, un musulmano se non fosse bugiardo non potrebbe assolutamente andare avanti, in senso basato proprio sulla bugia. Comunque chiedo scusa, io non volevo in senso proprio... No, no, lei ha espresso un suo parere, lei d'altronde questo momento è vicino a un mondo di riferimento che vive nel paradosso, che probabilmente l'Iran è uno degli stati che ha maggior reattività rispetto a questo fenomeno, è per noi considerato uno stato ostile. Ballardini. Posso chiedere al nostro... voglio dire, per carità, avete distrutto la Persia. Comunque, con quel discorso, distrutta l'umanità, non solamente la Persia. Comunque, noi ci siamo sacrificati, ci siamo ammazzati per fare sentire alla gente, al mondo, da 37 anni che stiamo facendo. Le pensi un nativo americano cosa può dire dei conquistadores? Cioè, è chiaro, laddove la religione impone i suoi modi di vivere, qualcuno ci lascia le penne. Posso fare una domanda al nostro ascoltatore? Ecco, io volevo chiederle, la ringrazio dell'intervento, volevo chiederle, lei si ritiene ad esempio su posizioni laiche? Vede, il discorso è questo, noi siamo persiani, maggior parte non siamo assolutamente musulmani, ecco. Anche se siamo nati, ma non vuol dire nulla, perché la religione musulmana è questa. Capito. La religione musulmana, se te non dici la bugia, non... vede, quando, adesso per carità, se dovessi parlare, perché non è facile, certo. Per un musulmano andare a letto con una ragazza di 9 anni, cosa vuol dire? Io siccome andavo a letto... per giustificare ho detto per esempio le sì, ragazze... Però questo accade, scusi, adesso non vorrei toglierle la parola in maniera drastica, ma potrei fare un elenco di ipocrisie che attraversano anche la nostra cultura, la nostra religione, il nostro modo d'essere. Non radicalizzerei così, prendo atto che dal suo punto di vista di persiano può esserci questa nota dolorosa, ma non potrei, non me la sento di appoggiare una generalizzazione così drastica. Tutti i musulmani sono dei bugiardi, perché è una religione che impone la bugia. Chiunque potrebbe dirlo la stessa cosa di ogni organizzazione religiosa. Diciamo che in questo momento particolare e in questa particolare campione dei rappresentanti di questa fascia estrema dell'Islam che stiamo trattando noi, è emerso in maniera molto visibile la necessità, anzi lo strumento strategico, di dover mentire, se no naturalmente non si può operare, non si può sopravvivere. Fermiamoci un istante, tra poco. Melog. Cronache meridiane. .800 24 0024 per chi voglia intervenire alla nostra riflessione. Telefono anche personaggi, questo signore iraniano, abbiamo ben capito alla fine come la pensasse veramente, ha drasticamente radicalizzato un'idea che era uscita, una lettura che era uscita dalla nostra missione, dicendo poi tutta la religione musulmana è basata sulla menzogna. In realtà, diceva Ballardini, non è proprio esattamente così. No. Diciamo, il musulmano in genere è tenuto alla più trasparente sincerità, e soltanto in quel caso, per proteggere la propria fede, che è ammessa una piccola bugia, quella che noi chiamiamo una bugia pietosa, insomma. Roberto da Milano, buongiorno. Buongiorno a tutti. Senta, io stavo ascoltando la vostra trasmissione, no? Come tante volte ho fatto anche con altre trasmissioni, ma proprio mi sono sempre sentito dire che questi fatti sono fatti militari, no? Ma mai ho sentito parlare di punizioni militaresche. Si spieghi meglio cosa vuol dire. Voglio dire soltanto una cosa, perché a questa non si pone di fronte a questi fatti la possibilità di uccidere gli attentatori con azioni molto forti da nostra parte. Beh, diciamo, se ci sono dei conflitti e scontri a fuoco, gli sparano, non è che gli tirano con la cerbottana. Beh, insomma, però non è mai avvenuto. Mai avvenuto. Cioè, vediamo sempre, diciamo così, noi che battiamo le loro azioni, mai noi che, diciamo, come dire, no, affrontiamo queste persone in modo militaresco, ecco, tutto qui. No, le faccio rispondere da Alfredo Mantici. In parte avrei anch'io degli argomenti a dirgli, perché l'attacco militare è compiuto da eserciti regolarmente costituiti, è una vecchia questione. In questo caso parliamo nel territorio di Bruxelles, di Parigi, dei luoghi dove sono stati, sono terroristi, è un'altra cosa, non hanno delle mostrine, non rispondono a una gerarchia militare. E in altri casi, sentiamo Mantici se riesce a dare un quadro su questa presunta morbidezza di cui accusava l'Occidente, il nostro ascoltatore. Non è una presunta morbidezza. Quando c'è stato l'ultimo scontro a fuoco la settimana scorsa, quando Abdesalam è riuscito a fuggire, sempre Molenbeek, sul terreno è rimasto un terrorista. Quindi vuol dire che quando è possibile la polizia reagisce. Non è vero che i terroristi non corrono rischi. I terroristi corrono rischi, rischiano di essere contrastati duramente. Ci fu durante la crisi dell'Irlanda del Nord la polemica feroce in Inghilterra sulla politica shoot to kill, cioè spara per uccidere, che sarebbe stata autorizzata da Margaret Thatcher. In realtà, nel confrontarsi con i terroristi dell'esercito repubblicano irlandese, a un certo punto le forze speciali inglesi si sono tolte i guanti e prima sparavano e poi chiedevano i documenti, ma lo facevano andando a colpo sicuro dopo un accuratissimo lavoro di intelligence sul terreno, e quindi sapevano che era inutile chiedere i documenti a un terrorista che avrebbe risposto sparando. Quindi non sarei così drastico come l'ascoltatore. Noi rispondiamo anche perché non vogliamo rinunciare, e noi abbiamo avuto 30 anni di terrorismo interno e non abbiamo rinunciato alle nostre libertà, abbiamo semplicemente inasprito alcune pene, abbiamo però messo nel contempo a disposizione dei terroristi lo strumento del pentimento e della dissociazione, quindi gli abbiamo detto: guardate, da una parte per il furto di una macchina per finalità di terrorismo vi beccate 17 anni di galera per direttissima, però dall'altra potete uscire dopodomani se denunciate tutti i vostri complici. E così siamo usciti dal terrorismo, con delle misure intelligenti che non hanno però alterato le basi della convivenza democratica. Ho una domanda per lei, Ballardini. Mantici, mi permetto di fare una domanda, visto che non so mai a chi farla. Lei, se è in grado, se rientra nella sua possibilità di risposta, perché poi magari non può, ma ci può spiegare a cosa servono i soldatini di guardia alle stazioni e alle fermate della metro, che non possono sparare perché hanno armi da guerra, e poi per arrestare qualcuno che ha il fucile giocattolo devono chiamare la polizia? Servono a qualcosa veramente? Posso dare una risposta semplice e brutale? Sì, magari. Servono da psicoterapia di gruppo. allora abbiamo la stessa idea. Cioè, servono a dare un'idea generale che comunque lo Stato è presente, e quando la signora prende la metropolitana e sente confortata a vedere il soldato in assetto di guerra, senza che si ponga il problema poi se in realtà questo assetto di guerra corrisponde a una reale operatività. Ecco, al di là dei soldati alle metropolitane, Mantici, secondo lei cosa sta accadendo e come si sta reagendo? Proprio una battuta, visto che stiamo chiudendo in un minuto. Non si può generalizzare, non esiste un comportamento europeo diffuso e unitario. Abbiamo leggi diverse, procedure di ingaggio diverse, noi ci comportiamo all'italiana, e fino adesso, stando a tutto quello che non è successo, vuol dire che abbiamo avuto un certo successo, e i popoli del nord si comportano secondo la loro antropologia giuridica, culturale e storica, e stanno prendendo delle mazzate tremende perché non sono in grado di confrontarsi con una guerra asimmetrica, con strumenti con gli strumenti giuridici che hanno, ma lei pensa che in Belgio la polizia non può fare le perquisizioni tra le 23 e le 5 della mattina per non disturbare i brani? Le pezzi mantici, questa è diventata la nuova battuta che ogni italiano fa davanti al cappuccino e non ridendo, quindi pensi quanto mai è entrata e sedimentata il nostro immaginario popolare. Alla prossima, tanto questo l'argomento sicuramente non è esaurito e non si esaurisce sicuramente oggi. Alla prossima.